Allora, parlavamo prima della curva della vita. La curva della vita, Reich la identifica nella curva dell'orgasmo. Eccola qua. Carica, Un carica, carica, tensione, acme, distensione. Sistema simpatico, incremento, sistema parasimpatico. Questo lo vedi nella curva dell'orgasmo e lo vedi in tutto ciò che è vivo. Lo senti nella musica. Primo tempo di una sinfonia magari cresce, è veloce, poi il secondo tempo c'è un tempo più lento, ma lo vedi in ogni battuta, in ogni arcata di un violinista, lo vedi dappertutto. C'è questo increscendo, poi diminuendo, e questa mobilità dell'energia è parte della vita. Quando l'energia non si muove più, che vuol dire, non è che vuol dire che non ce n'è, ma che costante, per esempio non è mobile, è fatto sempre uguale, lì non c'è più vita. Ecco, c'è blocco. Ecco. Allora, cosa accade quando un bambino entra nel mondo che è portatore di questa curva della vita? È il massimo della curva della vita, cioè nei primi periodi. È lì dove si moltiplicano le cellule, dove è potentissima cosa, no? Neonato raddoppia di peso in breve tempo, cioè quindi ha un'espansione magica, no? Si dice che se un adulto potesse fare i movimenti che fa un bambino di 2 anni sarebbe più che un atleta olimpionico, cioè una molta più forza. Ecco. Allora il bambino è totalmente, no, non ha un corpo, è un corpo. Il corpo non è qualcosa che possiede, che come uno strumento, è il corpo. Non c'è quindi conflitto tra il bambino e il corpo, mentre l'adulto comincia a esserci. Appena possibile, nell'adulto, ma appena si educano, no? Controllo gli sfinteri, qua comincia da lì il controllo degli sfinteri. Ecco, lì è un bel problema perché, come sappiamo, nelle culture non repressive il controllo viene automaticamente quando è l'età giusta, mentre da noi viene imposto prima. Ok, lì si hanno dei blocchi, generalmente dei blocchi. Non a caso Freud riconosceva in lì la base, l'origine della struttura ossessiva. Del controllo degli sfinteri, quindi le chiama il carattere anale. Va bene, cosa accade quando, come normalmente accade, c'è un blocco, la curva della vita viene compressa, gli si impedisce di realizzarsi, di fare il suo corso. No? Ecco, l'abbiamo detto prima, la prima reazione è il tentativo di riprovarci, di riprovarci, riprovarci, riprovarci. Fino a che a un certo punto una parte della curva della vita si arrende e l'energia vitale esplosiva, diretta verso l'esterno, diretta dall'amore e dell'esplorazione, si trasforma in energia implosiva. E diciamo che questa è l'origine strutturale, fisiologica della depressione. Da su, giù, il ritiro dal mondo. L'implosione. Questo però parte solo una parte dell'energia vitale. Poi ce n'è un'altra, il vitale pieno, che non si lascia assolutamente trasformare in quest'altro, nel segno negativo. E quindi combatte, combatte e naturalmente attiva che cosa? Le risorse dell'aggressività, della rabbia, della furia, che vuole assolutamente raggiungere un obiettivo che è legittimo per la vita. A questi punti arrivano le punizioni, arriva la repressione ancora più dura e questa repressione viene presto interiorizzata e quindi che cosa accade? Che quello che era una carica verso l'esterno distruttiva per liberarsi di un impedimento diventa una carica distruttiva verso di sé. E nelle persone dove la troviamo? Beh, abbastanza semplice. Vai a vedere cosa le persone si dicono per impedirsi di vivere e troverai tutta la distruttività che il vitale ha generato, che era diretta verso l'esterno prima, ma non potendo raggiungere l'esterno perché si è arreso verso l'esterno, e allora si rivolge contro che cosa? Contro il governo della persona stessa che ritiene un governo illegittimo, perché se non riesce a far esprimere nemmeno questo, è come se durante la rivoluzione francese, perché il popolo è entrato in piazza, perché non potevano mangiare. Se uno non può manco mangiare, un governo non è più tollerabile. Ecco. Giusto. Allora lo vedete nel giudice interno, nelle critiche che le persone si fanno, che sono delle vere e proprie persecuzioni, le persecuzioni che fanno sì che la persona diventi un prigioniero di questo. Perché prigioniero? Perché non può scappare. Tu hai un torturatore esterno, magari un giorno scappi e te ne liberi, ma quello interno non c'è niente da fare. Quindi sei in prigione. Prigione si dice captivitas, e captivus è il prigioniero, e il prigioniero è cattivo. Cioè il prigioniero perde l'innocenza perché in realtà medita la vendetta. E quindi la vendetta verso l'esterno, ma la vendetta verso l'esterno viene vista da un'altra parte di sé come pericolosa, e quindi il mondo viene visto sempre più come pericoloso e con fenomeni proiettivi che sono noti. Quindi all'origine abbiamo la repressione dell'energia vitale, da lì nasce la struttura depressiva. Quindi l'implosione, il desiderio di sparire da questo mondo. E quindi la spinta suicidiaria, che non è una spinta mortale, è una spinta di vita che è deformata, perché questo mondo non è ospitale e cerco di andare in un altro, mi ritiro. Come abbiamo detto una volta, tra la tortura a vita e la tortura e infine la morte, cioè se tu preferisci essere torturato e poi ucciso, o ucciso subito, ma non c'è dubbio, ucciso subito è una benedizione, ti limiti dalla tortura. Allora, quando la tortura diventa troppo intensa, c'è una parte suicidiaria che dice finiamola subito, tanto che senso ha? C'è solo tortura, finiamola qua. E quindi non va masochisticamente a cercare il suo male, ma il suo bene. Ok. Le persone spesso non capiscono che l'autopersecuzione è frutto di energia vitale bloccata, e che l'unico modo che ha trovato l'energia vitale per sopravvivere è quella di prendersela con se stessi. Se non se la prendeva nemmeno con se stessi, cosa faceva? Implodeva del tutto, cioè moriva, fine, chiudeva. Quindi è ancora una forma vitale. Infatti, l'autopersecuzione spesso si accompagna a piacere. Cioè la forza vitale non può esistere senza piacere, e persino prendersela con se stessi e farsi del male comporta piacere, il che vuol dire che dietro c'è la forza della vita e che ancora quello non è qualcosa di negativo, c'è del positivo, purtroppo direzionato nel peggiore dei modi. Non perché la persona è stupida, ma perché è vissuta in un contesto stupido, in un contesto oppressivo che fa finta di essere aperto e educativo, mentre in realtà è un contesto mortifero. Siamo in una cultura della morte, non una cultura della vita. Infatti non si fa che parlare onoriamo la vita. Ma proprio quando si dice onoriamo la vita, cosa significa? Onoriamo la morte. Perché chi onora la vita non lo dice, non ne ha assolutamente bisogno. Quando diciamo onoriamo la vita significa che viviamo in una cultura in cui veramente stiamo onorando la morte completamente. Cioè, la morte cos'è? È la fine della curva della vita. Quindi una persona che si blocca nella curva della vita è già morta. Non del tutto, perché la vita non finisce mai, la vita continua sempre a spingere, a trovare nuove forme. A volte la forma è la schizofrenia, cioè la follia è l'ultima che rimane, ecco, il suicidio, la follia, che sono poi le due grandi paure dell'umanità, la follia e la paura della morte. La paura della morte è perché c'è una spinta suicida dovuta alla forza vitale che si ritorce implodendo su se stessa, e la follia perché la follia è la disintegrazione. Disintegrazione vuol dire che non c'è più un io in grado veramente di gestire le cose. L'io viene detronizzato e siamo in balia delle forze indifferenziate dell'inconscio. È quella la follia. Ok, quando l'io non ce la fa più a tenere in piedi perché il suo governo non è più capace, il sistema salta e si va nell'anarchia, c'è l'indifferenziato nel proliferare delle parti interne che peraltro esistono già subito. Non è che sono frutto di qualcosa di patologico, come dice Breuler, no? Il maestro di Jung, nasciamo schizofrenici, poi cioè fatti di tante parti, con tanti differenti interessi, bisogni, progetti, insomma, motivazioni che confliggono tra di loro. E uno di questi, prima o poi, se siamo fortunati, prende il governo. Prende il governo e tiene a bada, coordina gli altri personaggi, cioè diventa direttore d'orchestra. Ma questo è sempre qualcosa che non è definitivo, va sempre rinnovato questo. E dice Jung che al mattino, dopo che abbiamo dormito, c'è una fase di transizione in cui dobbiamo passare dalla fase del sonno, dove prevale l'inconscio, le forze differenziate, alle forze della ragione nella giornata, e le forze della ragione sono le forze dell'io e quindi della logica. La logica ci accomuna, tutti siamo simili nel ragionare. E nella notte invece le forze differenziate sono differenti, ognuno fa i sogni completamente diversi, anche se i simboli poi sono gli stessi. Ok.